e il settimo si riposò. Il riposo del guerriero, il rotocalco di Radio 24 che fa riposare il corpo, non la mente, e che ti permette di conoscere Francesco Guardi con ingresso e catalogo della mostra a Venezia. Per riuscirci devi indovinare l'opera del grande artista associata a una canzone che ti farò ascoltare durante il programma. Il riposo del guerriero, ogni domenica alle 10 con Stefano Gallarini su Radio 24.